L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Benvenuti, è tutto pronto per il consueto riepilogo dei fatti più importanti dell'ultima settimana. Come sempre, una notizia in evidenza per giorno, partendo dal sabato scorso 15 novembre e arrivando fino a ieri. I servizi, le interviste e i commenti che riascolteremo sono già andati in onda nei GR di Radio 24. Sabato. Tutti guardano a Washington, dove si svolge un attesissimo vertice del G20. Accanto ai consueti invitati del G8 c'è un posto a tavola, per così dire, anche per tante potenze economiche che sono ormai emergenti soltanto nel nome, ma si tratta di potenze belle toste, belle forti come Cina, India e Russia. La crisi internazionale è naturalmente l'argomento in primo piano. Sentiamo come si concludono i lavori. Il G20 ci ha provato. Il doppio compito di sostenere l'economia mondiale, di stabilizzare i mercati finanziari non era affatto facile, ma i leader dei grandi paesi industriali e delle più importanti economie emergenti riuniti a Washington sapevano che l'emergenza creata da una crisi finanziaria pesantissima che è in corso ormai da un anno e mezzo e che ha contagiato l'economia reale non lasciava loro margini per spaccature o rinvii. E il G20, un gruppo composito dove siedono fianco a fianco i leader del G7, il cinese Hu Jintao, il brasiliano Lula e il re saudita Abdullah, hanno risposto. Nonostante un periodo di preparazione di sole 3 settimane, hanno prodotto un piano d'azione in 37 punti, ma le conseguenze più importanti della riunione di Washington verranno dalla riforma delle regole della finanza globale attraverso misure urgenti per uscire dalla crisi e poi con interventi strutturali sui mercati finanziari. Un ruolo centrale toccherà al Financial Stability Forum presieduto dal governatore della Banca d'Italia Mario Draghi. Prima verifica ad aprile in un nuovo vertice che vedrà il debutto del nuovo presidente americano Barack Obama, che ieri si è limitato a mandare un messaggio di auguri al vertice attraverso YouTube. A Washington naturalmente c'è anche l'Italia che, attraverso le parole del presidente del Consiglio Berlusconi, fa degli annunci importanti con anche grossi numeri in funzione anticrisi. Poi naturalmente tutte le cose che dice Berlusconi dovranno essere verificate e approvate in concreto dal Consiglio dei Ministri. Sentiamo però i dettagli nel servizio di Valeria De Rosa. Dobbiamo dire con fermezza che non siamo in ritardo, come affermano i signori della sinistra. Il G20 è finito da qualche minuto quando Silvio Berlusconi annuncia che saranno 80 i miliardi che il governo intende investire per aiutare imprese e famiglie. Il presidente del Consiglio è affiancato dal ministro dell'Economia ed è lo stesso Tremonti a giustificare la rilevanza dell'intervento. Una cifra che noi riteniamo in linea con l'Europa, con gli interventi in discussione in Europa, compatibile con il nostro debito pubblico per come è articolata e per come impatta sul deficit. Si parte il 21 novembre con le misure che adotterà il CIPE, interventi per 16 miliardi in infrastrutture, di cui 4 con project financing. Il piano del governo prevede anche un migliore utilizzo dei fondi comunitari, 40 miliardi di euro spalmati sui prossimi 2-3 anni e destinati all'ambiente, alla ricerca e allo sviluppo. Un contributo da 10 miliardi di euro verrà invece da un nuovo sistema di tariffazione autostradale collegato agli investimenti da parte delle società di gestione. Gli ultimi 14 miliardi non vengono specificati, ma riguardano il rinnovo dei contratti di produttività, la fiscalità e la tutela del credito per le imprese e il sostegno alle famiglie. Dopo l'annuncio fatto dall'America, il governo passa ai fatti concreti a discutere queste iniziative anticrisi. Sta lavorando a questo piano e forse la prossima settimana ne sapremo di più. Sentiamo ora invece il servizio di Paola Nania che riassume la situazione fino a giovedì. Le condizioni dell'Italia non lasciano alternative, bisogna agire in fretta, contrastare un'economia che arretra con interventi nel breve termine. Per gli ispettori del Fondo Monetario il nostro paese sta subendo un forte impatto per la crisi internazionale e la ripresa sarà lenta. Reggono bene invece le banche, dello stesso avviso il premier Berlusconi. Abbiamo avuto la soddisfazione di vedere come il nostro sistema bancario fosse complessivamente solido. È importante che queste banche continuino a fare il loro mestiere, continuino a fare le banche, cioè a sostenere le imprese. Ma se l'FMI consiglia di accelerare, il governo se la prende comoda. Slitta la prossima settimana la riunione del CIPE che avrebbe dovuto sbloccare 16 miliardi e mezzo per nuove infrastrutture. Anche il pacchetto di aiuti per famiglie e imprese tra i 2 e 4 miliardi miliardi, arriverà in Consiglio dei Ministri settimana prossima. Prima è previsto l'incontro con le parti sociali. Possibile tra l'altro un bonus a Natale per i nuclei più poveri. Affanni insomma richiamati dall'FMI e rilanciati dalla CGIL. Il segretario Epifani. Dalla ricognizione che stiamo facendo proprio in queste ore esce fuori un quadro della crisi molto più pesante. Sta arrivando una valanga. Necessari sgravi fiscali e tutele più ampie, conclude Epifani. Come al solito è difficile riassumere tutto quello che succede in una settimana in campo economico. Lunedì, ad esempio, è una giornata molto significativa. Ad esempio, da un lato c'è la notizia ufficiale che il Giappone è entrato in recessione. Dall'altro c'è Almunia, il commissario europeo all'economia, che avverte che il rischio della deflazione è concreto. Tra l'altro invece qualche giorno più tardi ribadirà l'importanza del patto di stabilità e soprattutto la necessità di rispettarlo. Poi c'è un'altra battaglia molto accesa che si sviluppa soprattutto negli Stati Uniti attorno agli aiuti nel settore dell'auto. Peraltro c'è un'altra notizia importante che viene dall'America, quella di Citigroup, che annuncia addirittura 52.000 licenziamenti. Sentiamo i dettagli per quel che riguarda invece il settore dell'auto in questo servizio di Andrea Malan andato in onda mercoledì. I manager dei colossi americani dell'auto sono a Washington a perorare la causa di nuovi finanziamenti pubblici, oltre ai 25 miliardi di dollari già stanziati, finanziamenti che però non tutti sono disposti a concedere. Per ottenerli, Alan Mulally della Ford avverte che l'ipotesi di un fallimento controllato non è neppure praticabile e Rick Wagoner della General Motors avverte a sua volta: un nostro fallimento proprio ora sarebbe disastroso per l'economia americana. Wall Street sembra però meno scettica e ha spinto ieri i titoli di GM ai minimi da quasi 70 anni. Anche in Europa intanto crescono le voci a sostegno di un aiuto all'intero settore dell'auto. Sergio Marchion della Fiat avverte: se aiuti devono essere, devono mettere tutti su un piano di parità. Se è vero infatti che attualmente solo le case americane sono a rischio crack, gli europei temono che i fondi pubblici le rafforzino, a partire dalla Opel, filiale tedesca della GM. Il problema sarà di conciliare gli eventuali aiuti a situazioni di emergenza con il rispetto delle regole che la stessa Unione Europea si è data. Chiudiamo con un resoconto della settimana in borsa. Vi riraccontiamo l'andamento negativo di giovedì in questo servizio di Anna Marino. Dopo un altro giorno di sofferenza per le borse europee, ancora uno scivolone di Wall Street nel finale, con il Dow Jones giù del 5,56% e Nasdaq del 5,07%, ai minimi degli ultimi 5 anni e mezzo. A pesare sui listini americani e il susseguirsi di indicazioni negative sullo stato dell'economia e il rinvio del voto sul piano di salvataggio dell'industria automobilistica, con un avvio in rosso e un andamento altalenante, i listini americani hanno incassato anche le notizie peggiori delle attese arrivate ieri dal mercato del lavoro degli Stati Uniti. Il numero di persone che per la prima volta hanno fatto richiesta di sussidi di disoccupazione è balzato la scorsa settimana di 27.000 unità. Non succedeva da 16 anni. Gli indici europei hanno cercato sul finale di ridurre le pesanti perdite della giornata, pur chiudendo ai livelli più bassi degli ultimi 5 anni. Milano ha perso il 2,10%, Parigi, Londra e Francoforte oltre il 3%. Intanto è proseguita la discesa inarrestabile del prezzo del petrolio, scivolato ieri sotto la soglia dei $50 al barile. Bisogna ricordare che oltre al calo del prezzo del petrolio, per fortuna di tutti noi, è calata anche la benzina, quindi una bella notizia che mi sembrava giusto ricordare. Visto che abbiamo riassunto la settimana economica, ricordiamo anche che cosa ha detto ieri Trichet, il presidente della Banca Centrale Europea, ha annunciato nuovi tagli dei tassi di interesse a dicembre. Domenica. La notizia del giorno arriva dagli Stati Uniti, non riguarda la crisi economica, non riguarda direttamente Obama, ma si riferisce al fronte di guerra dell'Iraq. Gli americani, lo ricordo, sono in Iraq ormai dal 2003 e forse adesso si intravede una data certa per il ritiro delle truppe. Sentiamo Alberto Negri e poi la reazione dal mondo arabo con Adib Fateh Ali. Il 31 dicembre del 2011 in Iraq non resterà più un soldato americano e le truppe straniere si ritireranno dalle città già entro il giugno del prossimo anno. Questo è in sostanza l'accordo sulla sicurezza approvato dal governo di Baghdad dopo un anno di negoziati intensi, a volte aspri, con Washington. Si tratta di una svolta per l'Iraq, ma anche per tutto il Medio Oriente, un segnale che potrebbe avere effetti positivi nei rapporti tra gli Stati Uniti e le potenze come l'Iran, che vedono con ostilità o diffidenza la presenza militare americana. Con un percorso già tracciato, la nuova amministrazione di Barack Obama potrà anche intervenire con maggiore credibilità nelle varie crisi della regione, dalla questione israeliano-palestinese all'Afghanistan. L'intesa, che dovrà essere approvata anche dal Parlamento iracheno, introduce un importante elemento di distensione in un'area cruciale per gli equilibri internazionali e i rifornimenti petroliferi, ma non allontana i pericoli di nuove crisi e conflitti. La storia del Medio Oriente non concede facili ottimismi sul destino dei popoli e delle nazioni. L'Iraq però è soltanto una tessera, seppure molto importante, del mosaico internazionale che Obama dovrà comporre quando sarà a tutti gli effetti presidente degli Stati Uniti dal 20 gennaio dell'anno prossimo. Tra i dossier che scottano sul suo tavolo ci sono anche l'Iran, c'è l'Afghanistan e quello senza confini certi della lotta al terrorismo. Al-Qaeda intanto mercoledì si fa sentire, ci racconta tutto Sergio Nava. Un video di poco superiore agli 11 minuti, più centrato sull'insulto che sulla minaccia. È questo il bizzarro e offensivo benvenuto di Al-Qaeda al presidente eletto Barack Obama, una mossa che ha seguito il lungo silenzio post-elettorale da parte della principale organizzazione terroristica mondiale, interrotto a 2 settimane dalla storica notte del voto. Portavoce del messaggio di Al-Qaeda è il secondo nella catena di comando, l'egiziano Ayman al-Zawahiri, che ha rimproverato a Obama di aver abbandonato le sue origini e la fede islamica del padre per andare a fare lo schiavo della popolazione bianca. House Negro è l'offensiva definizione utilizzata da al-Zawahiri, che descrive Obama come una specie di zio Tom amico dei bianchi, accostandoli con un paragone irriverente il controverso leader musulmano Malcolm X. Al-Zawahiri rivela i veri motivi di contrasto laddove affronta la questione della politica estera americana, definendo come destinata al fallimento la missione anti-Al-Qaeda in Afghanistan, su cui Obama intende concentrare tutti i propri sforzi, e non risparmia neppure frecciate velenose alla politica di Bush in Iraq. Dall'entourage di Obama nessun commento sul video, mentre i servizi di intelligence non vi intravedono motivi di preoccupazione immediata. Obama non deve naturalmente pensare soltanto a Bin Laden, deve anche definire la sua squadra di governo e deve farlo anche in tempi piuttosto rapidi, vista la delicata situazione di crisi. In settimana circolano nomi e poltrone su cui puoi sistemare questi nomi, ad esempio si parla di Janet Napolitano, chiare origini italiane, 50 anni, governatrice dell'Arizona, lo stato di McCain, che peraltro Obama ha incontrato lunedì. Dicevo, la Napolitano viene data ormai per certa quasi alla sicurezza interna, una poltrona molto delicata. Poi c'è l'avvocato nero di Washington, Eric Holder, che potrebbe essere il primo nero ministro della giustizia. Ma sicuramente il nome più chiacchierato è quello di Hillary Clinton. Sentiamo questo servizio di Adriana Fracchia. Sembra sempre più vicina per Hillary Clinton la nomina a segretario di Stato nel governo del presidente eletto Barack Obama. Secondo alcune indiscrezioni che arrivano da dirigenti del Partito Democratico degli Stati Uniti, citati dalla CNN, Obama avrebbe offerto la nomina alla senatrice di New York, la quale avrebbe deciso di accettarla. Nomina che potrebbe essere ufficializzata dopo il giovedì del ringraziamento, il 27 novembre, una festività molto sentita dagli americani. La nomina per Hillary si sarebbe definitivamente sbloccata dopo che il marito, l'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, ha accettato di consentire che tutte le attività future legate alle sue fondazioni siano sottoposte ad un controllo da parte dello staff di Obama per evitare un possibile conflitto di interessi. Ritorniamo a parlare di Iraq, perché da quella che è una delle regioni purtroppo più martoriate della terra arriva invece una bella notizia che coinvolge persino l'Italia. Sentite Adib Fateh Ali. Siamo grati all'Italia per il suo costante impegno a sostenere gli sforzi per recuperare il patrimonio archeologico del nostro paese. Così ci ha detto al telefono Amir Aidan, la direttrice dell'Iraqi National Museum, che ha ricevuto stamani la visita del nostro ministro degli esteri, Franco Frattini, arrivato a sorpresa stamani a Baghdad. Siamo orgogliosi di aver guidato il salvataggio di questo straordinario museo, aveva detto il titolare della Farnesina. Orgoglio che bisogna attribuire al Centro di Ricerca Archeologiche e Scavi di Torino. L'istituto è impegnato da 5 anni a ripristinare, restaurare e conservare l'immensa collezione di un museo che ha subito dopo la caduta di Saddam Hussein un inaudito saccheggio. Un altro motivo d'orgoglio per gli italiani lo darà il Centro Nazionale di Ricerche. L'istituto a febbraio, con il completamento del progetto Museo Virtuale di Baghdad, permetterà a tutti di vedere in rete le meraviglie di Assiri e Sumeri custodite nello stesso museo. Lunedì. Il Tribunale di Torino si pronuncia sulla richiesta di rinvio a giudizio per i vertici della ThyssenKrupp. Torniamo a parlare del rogo terribile del dicembre del 2007, di un anno fa esatto. Dalla capoluogo piemontese sentiamo la corrispondenza di Marco Ferrando. Comunque andrà a finire il processo che il 15 gennaio si aprirà a Torino per l'incendio che il 6 dicembre 2007 devastò la linea 5 dell'acciaieria Thyssen, lascerà il segno. Per la prima volta in Italia, infatti, in un caso di incidente sul lavoro, l'accusa sarà quella di omicidio volontario. Di questo risponderà l'amministratore delegato dell'azienda, Harald Espenham, rinviato a giudizio insieme ad altri 5 dirigenti o funzionari alla stessa Thyssen come persona giuridica, questi ultimi per omicidio colposo con colpa cosciente. Così ha deciso ieri il GUP Francesco Gianfrotta, che di fatto ha interamente accolto l'impianto accusatorio elaborato dal PM aggiunto Raffaele Guadagnello, prossima scadenza il 15 gennaio in Corte d'Assise, con l'inizio del processo vero e proprio. A seguirlo ci saranno naturalmente i familiari delle 7 vittime, che ieri hanno definito il rinvio a giudizio la prima grande vittoria di chi ha perso tra le fiamme i propri cari, e anche il sindacato con la FIOM costituita parte civile insieme a FIM e UILM. Nel servizio è appena stato ricordato Raffaele Guadagnello, che è il pubblico ministero nell'inchiesta sulla Thyssen. Questo è il suo commento raccolto da Paolo Piacenza. La pagina più importante nella storia della giurisprudenza in tema di sicurezza del lavoro. Abbiamo scritto una pagina che non era mai stata scritta in passato. È la prima volta nel mondo e nella storia che si fa un rinvio a giudizio, non una sentenza di condanna, un rinvio a giudizio, però è la prima volta per un omicidio doloso, sia pure con dolo eventuale, e questa è una indicazione preziosa sia per il caso specifico, ma anche al di là del caso specifico, è un'indicazione che sarà importante per tutti, per gli operatori, per le aziende, per gli ispettori, che cioè ci può essere anche l'omicidio doloso in tema di sicurezza del lavoro. Purtroppo sempre lunedì, quindi in concomitanza con il rinvio a giudizio per i vertici della Thyssen, si registra l'ennesimo tragico incidente sul lavoro. Il servizio è di Paolo Piacenza. Era considerata un'azienda relativamente sicura, la Marconi Gomme di Sasso Marconi, in provincia di Bologna. E la sperimentazione di ieri per una nuova mescola, da cui sono scaturite, per cause che restano da accertare, le 3 esplosioni ravvicinate che hanno ucciso il responsabile tecnico Fabio Costanzi, di 56 anni, e l'operaio di origine indiana Yadav Raniatz, di 45, era considerata un'operazione a basso rischio, abituale. Il direttore di produzione, Luciano Cardin. È stata una cosa violentissima, Non ci sono stati momenti di preavviso. Io ero lì in ufficio e ho sentito un'esplosione immensa. Ho guardato fuori dalla finestra. Una finestra, tutti i vetri sono saltati. Un'altra finestra, ho visto tutto nero, fumo nero, perché in un attimo tutto il reparto era diventato nero dal fumo. Nello stabilimento c'era una decina di persone. 3 sono rimaste ferite in modo tale da richiedere il ricovero in ospedale, ma non sono in pericolo di vita. Il PM Marco Mescolini, che dirige l'inchiesta, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati, e ha sequestrato lo stabilimento. Oltre alla vicenda Thyssen, ci sono altri 2 processi molto diversi, tra loro molto lontani dal contesto della Thyssen, che finiscono sulle prime pagine dei giornali in questi giorni. Uno riguarda il crack della Parmalat e il suo primo e più illustre imputato, ovvero Callisto Tanzi. Sentiamo la cronaca di Raffaella Calandra. Mai ho ideato, mai ho avuto la consapevolezza che potesse nascere quella che è stata definita la grande truffa in danno dei risparmiatori. Tenta di smarcarsi dall'immagine di regista del crack e alla vigilia della prima sentenza Parmalat, Callisto Tanzi torna in aula per puntare il dito contro le banche. Credo che già nel 94, stima, potessero avere dubbi sulle reali condizioni del gruppo. Chi ha introdotto Parmalat nel mondo bond, rivela, è stato il responsabile in Italia della Chase Manhattan Bank, ossia Federico Imbert. Parla della cosiddetta finanza alternativa e spiega così i primi rapporti con Bank of America, a cui la difesa dell'ex patron di Collecchio riserva gli strali più forti. Del default Tanzi è pronto ad assumersi la responsabilità morale e assicura la sua totale collaborazione, così ammette i finanziamenti ai partiti per lobbying, spiega, ma allo stesso tempo smentisce l'esistenza di patrimoni nascosti. Non esiste un tesoro di Callisto Tanzi. Tutto quanto era nelle mie disponibilità è stato messo a disposizione della procedura in favore di chi deve essere risarcito. L'altro processo in vetrina su giornali e televisioni che attira anche molti curiosi, alcuni direi anche piuttosto morbosi, è quello per la strage di Erba. Mercoledì parla con grande attesa addirittura Olindo Romano. Da Como la corrispondenza di Giovanni Capuano. Assoluzione per insufficienza di prove o in subordine una perizia psichiatrica. Sono le carte che i legali di Rosa e Olindo giocheranno lunedì, quando dovranno cercare di convincere i giudici della Corte d'Assise di Como a non condannare all'ergastolo con 3 anni di isolamento i coniugi Romano. Una strategia anticipata ieri dalla dichiarazione spontanea di Olindo, che ha rotto il silenzio per raccontare che gli incontri con gli psichiatri erano funzionali alle terapie e non riguardavano presunte confessioni, che nella videointervista con il criminologo Picozzi si era solo immedesimato nel personaggio del mostro di Erba e infine che le annotazioni scritte sulla Bibbia non erano, come sostenuto dal pubblico ministero Astori, una rivendicazione. Gli scritti sulla Bibbia sono in linea col mio pentimento. Sì, alcuni sono stati scritti con una punta di rabbia, un modo come un altro per sfogarsi. Su Olindo e Rosa ieri si sono però abbattute le parole dei legali delle vittime. L'unico risarcimento sarebbe che raccontassero la verità, ha detto l'avvocato della famiglia Castagna. Per loro voglio un ergastolo senza Dio, ha scritto Azzuz in una lettera. In tutto le parti civili hanno chiesto danni per oltre 3 milioni di euro. L'ottavo giorno. Martedì. Ed è arrivato il momento di aprire la nostra finestra sulla politica italiana, anche perché l'argomento della settimana è una di quelle cose che soltanto in Italia succedono. Sto parlando della querelle, della guerra incrociata tra maggioranza e opposizione, ma soprattutto all'interno dell'opposizione, per arrivare a trovare finalmente il presidente della Commissione di Vigilanza Rai. È una situazione che è pendente dall'inizio della legislatura. La settimana scorsa, ricorderete, con un colpo a sorpresa, ma soprattutto con i voti del Partito delle Libertà, quindi del centrodestra, era stato eletto Riccardo Villari del Partito Democratico. Ma Villari non è il candidato che il PD vuole. Martedì sembra si arrivi finalmente ad una soluzione condivisa da tutti grazie al nome di Sergio Zavoli. Sentiamo il servizio di martedì di Elisabetta Fiorito e poi proprio Zavoli, intervistato subito dopo l'uscita così del suo nome, da Raffaella Calandra. Un'ipotesi assolutamente idonea, dice il premier Silvio Berlusconi, si è chiuso un confronto aspro, precisa il segretario del PD Walter Veltroni. È accordo sulla commissione di vigilanza Rai, a presiederla un nome di prestigio, Sergio Zavoli, giornalista, ex presidente di Viale Mazzini, attualmente senatore PD. Fabrizio Morri del Partito Democratico. Intorno al nome di Zavoli c'è una condivisione, maggioranza e opposizione, che può permettere lo sblocco di questa situazione. Il caso si sblocca in mattinata quando Leoluca Orlando, Italia dei Valori, candidato dell'opposizione, dà le dimissioni dalla commissione di vigilanza. Antonio Di Pietro accusa Berlusconi di corruzione politica. Nel pomeriggio poi circola il nome di Zavoli. Dalla maggioranza prima cautela, infine il plauso di Berlusconi, anche se manca ancora l'ultimo tassello, Maurizio Gasparri del Popolo della Libertà. La candidatura di Zavoli è una candidatura certamente prestigiosa e condivisibile, tuttavia la Commissione parlamentare di vigilanza ha un presidente legittimamente eletto. L'attuale presidente della Commissione, Riccardo Villari, infatti non retrocede, non si dimette e denuncia pressioni di inaudita violenza. Bisogna capire insomma che cosa vuole fare questo signor Villari, che ha addirittura indetto una riunione nella commissione per giovedì prossimo. Rimane soltanto questa riserva mentale, questo angolo di leggera oscurità intorno a tutta la commissione. Poteva dare la sensazione che in questo caso si era trovata una strada che metteva d'accordo tutti, quindi c'era una decisione condivisa, il che poteva dare una sensazione di maggiore certezza sulle cose che fa la politica del nostro paese. Mi sembra quasi di capire che lei non ci creda al fatto che io ci credo, perché c'è stato un accordo già raggiunto. Non conosco gli iter procedurali per capire se fino a che punto il senatore Villari è nella condizione di bloccare la situazione. Se si dimettesse la sbloccherebbe. Il discorso sembra dunque chiuso, ma in realtà Villari non si è ancora dimesso. Ancora ieri ostentava serenità e la volontà di continuare nel suo ruolo di presidente eletto della Commissione di Vigilanza Rai. La giornata più calda è forse quella di mercoledì, ce la racconta questo servizio di Vincenzo Miglietta. È un vero e proprio accerchiamento politico quello in atto intorno a Riccardo Villari, che ieri a sorpresa ha deciso di non dimettersi dopo l'annunciato accordo tra maggioranza ed opposizione sul nome di Zavoli. Villari è stato espulso dal gruppo parlamentare del Senato del Partito Democratico. Le sue dimissioni sono state sollecitate anche dai presidenti di Camera e Senato Fini e Schifani, così quest'ultimo. Ritengo che l'iniziativa del senatore Villari si sia positivamente conclusa. Compito esaurito quello di Villari anche per Berlusconi, che invita il senatore a rassegnare serenamente le dimissioni. Per Veltroni il comportamento di Villari è pazzesco, ma il leader PD trova precise responsabilità anche nel Popolo della Libertà. Noi abbiamo fatto un'intesa con Palazzo Chigi. A questo punto il problema non è più mio, è un problema evidentemente tutto in casa della destra, che se vuole e se ritiene lo risolverà. Pronta la replica del centrodestra, il capogruppo alla Camera Cicchitto. Diciamo che nel momento nel quale Villari si dimettesse siamo pronti a votare per Zavoli, ma non siamo noi che dobbiamo risolvere questo problema, tenendo conto che Villari è stato eletto in modo assolutamente regolare. Il nome di Zavoli continua dunque ad essere il più gettonato in caso arrivassero le dimissioni di Villari. Per quest'ultimo la sua espulsione dal PD è una decisione poco democratica, poi ribadisce: vado avanti, il mio ruolo è legittimo. Mercoledì. Tocca ad Alitalia, un evergreen del nostro programma. Anche questa settimana abbiamo visto scioperi, voli cancellati, ma anche, appunto mercoledì, l'ufficiale passaggio di consegne da Alitalia a CAI. Sentiamo il servizio di chi poi fin dall'inizio ha seguito la vicenda, ovvero da Roma, Francesca Malaguti. Tutto è pronto per il passaggio di mano di Alitalia. Nel tardo pomeriggio di ieri è arrivato il via libera del ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola al commissario Fantozzi per vendere a CAI gli asset della compagnia, che ha richiesto entro il 1 dicembre. Il prezzo minimo è stato fissato a 1.052 milioni di euro, un lieve rialzo sull'offerta dei compratori pari a 1.000 milioni. Ieri mattina era già arrivato l'ok all'acquisto del comitato di sorveglianza, che ha valutato la perizia di Banca Leonardo, consulente finanziario del governo, sul prezzo della compagnia e sull'adeguatezza dell'offerta. I giochi sono fatti dunque, ma slitta a fine anno la scelta del partner estero della nuova Alitalia. L'allungamento dei tempi sarebbe una conseguenza del pressing della compagnia tedesca Lufthansa, tornata alla carica dopo le dichiarazioni del premier Berlusconi in suo favore. Ma Gaetano Micichè, responsabile corporate di Intesa San Paolo, l'advisor di CAI, fa una precisazione sui criteri di selezione. Sceglieremo il partner che ci assicura la partnership strategica di più lungo periodo. Soltanto due giorni prima, lunedì, il presidente dell'ENAC, Vito Riggio, interviene nel GR delle 13 di Radio 24. La sua è un'intervista lunga che vi riproponiamo nelle parti più importanti. Il debito è tale da avere provocato la messa in amministrazione straordinaria. La situazione è una situazione straordinaria. Noi abbiamo dato una licenza provvisoria basandoci sul fatto che ci fosse un piano di risanamento, in questo caso il piano dell'acquirente. È evidente che la riduzione dell'operativo ormai è in atto, anche per la ragione che tutti vedono, che non si riesce, visto il comportamento di alcuni, a far volare gli aerei previsti. Io penso che questo mese, con un'attenta regia, penso di istituire un comitato per la transizione in cui saranno rappresentati sia la vecchia che la nuova Alitalia e ovviamente l'ente di vigilanza, in modo tale da garantire soprattutto i passeggeri. Senta Riggio, erano stati i piloti a farlo trasparire, poi ieri il commissario Fantozzi per l'Alitalia l'ha confermato, insomma anche lei ci sta dicendo qualcosa in questo senso, però possiamo essere più precisi: per garantire la sicurezza dei voli, per esempio, alcune tratte potrebbero essere soppresse perché magari non ci sono più i soldi per pagare tutto, vi risulta? Ma guardi, da molto tempo ormai si procede ad una messa a terra degli aerei in considerazione del fatto che per Alitalia, per come è organizzato ormai da anni, volare costa piuttosto che un guadagno è una perdita, non è una cosa degli ultimi mesi. D'altra parte, dovendo pagare in anticipo i fornitori, i pezzi di ricambio e tutto quello che serve per poter volare, è evidente che si approfitta anche di una contrazione del mercato che è un po' stagionale, un po' purtroppo strutturale, per operare quei risparmi che consentano di consegnare all'acquirente una condizione non del tutto deteriorata. Senta Riggio, lei prima parlava di un comitato per la transizione, quindi volete intervenire direttamente in questi giorni per controllare che succede? Sì, direi che noi dobbiamo, perché vede, noi siamo in qualche modo, a parte i garanti della sicurezza, che è una vecchia competenza, dal 2004 il regolamento europeo sui diritti dei passeggeri ci ha affidato anche il compito di vigilare che le compagnie aeree abbiano, come dire, sia in forma preventiva che in forma successiva in termini sanzionatori, rispetto e attenzione per i passeggeri a cui promettono i voli facendoseli pagare. Quindi penso che sia assolutamente doveroso da parte nostra vigilare puntualmente sul rispetto delle obbligazioni che si assumono nei confronti dei passeggeri. Senta, anche questo è stato dibattuto tra i piloti e la compagnia sul fatto che i voli rimanevano a terra. La compagnia diceva perché c'erano gli scioperi, invece i piloti hostess per problemi tecnici. Insomma, lei ci conferma che anche questo vi risulta, non è soltanto la protesta sindacale che ha bloccato i voli dell'Alitalia. Guardi, per come è organizzata l'Alitalia, ripeto, da anni, è chiaro che c'erano tutta una serie di attività che venivano svolte in qualche modo in termini forse di supplenza da parte degli equipaggi, cosa che per la verità, a parte i manuali, insomma, accade in tutte le compagnie al mondo. È chiaro che se si assume un atteggiamento, come dire, di non piena collaborazione, per essere eufemistici, è chiaro che questi problemi vengono esaltati. Allora mi è sembrato opportuno che si riducesse i voli prima e si comunicasse quali voli effettivamente partono, per evitare quelle code, quegli intasamenti e quella perdita di bagagli che tutti i giornali e i telegiornali hanno fatto vedere in giro. Insomma, poca trasparenza in qualche modo, secondo lei? Ma guardi, poca trasparenza. Il fatto è che appunto nel corso degli anni sulla compagnia si era abbattuto un modello organizzativo che certamente non è tra i migliori, insomma la fusione, il fatto che la compagnia sia proprietaria di entrambe le due strutture, quella del volo e quella di terra, ha determinato il fatto che in molti casi diciamo, si applicava certamente il regolamento, per in termini di sicurezza non c'è mai stato alcun problema, però in termini di snellimento delle procedure, come si fa quando si vuole volare e guadagnare soldi? Insomma, vede, qui c'è un paradosso. Insomma, spesso gli atteggiamenti sembrano orientati a continuare a perdere quattrini, devo dire, qualche volta da parte del management, qualche volta da parte degli operatori. Il dato di fatto è che se non si vola e non si avvisa che non si vola, si creano dei danni ai passeggeri e quindi noi combiniamo delle multe, perché questo ci dice il regolamento. E nel bel mezzo, nel pieno di questa seconda settimana di scioperi bianchi per il trasporto aereo, torniamo a riascoltare la voce di Francesca Malaguti. Questa è la situazione aggiornata a ieri. Il passaggio dalla vecchia alla nuova Alitalia sarà praticamente senza soluzione di continuità. La data prevista è il 1° dicembre. Quel giorno, subito dopo mezzanotte, personale in servizio e aerei dovranno dipendere dalla CAI, quando fino a un minuto prima erano in mano al commissario Fantozzi. Tutto ciò passando necessariamente per la cassa integrazione, che in molti casi durerà solo un minuto. Per mettere in atto questa procedura in linea con le norme europee e rilasciare il certificato di operatore aereo, è al lavoro l'ente per l'aviazione civile, presieduto da Vito Riggio. Normalmente queste operazioni si fanno fermando per fallimento l'impresa principale e poi aspettando addirittura mesi. Noi stiamo provando a farla nella continuità tecnica migliore, cioè con il minor tempo possibile. Da parte sua, CAI dovrà dare la garanzia di avere al momento del passaggio i mezzi per volare e far fronte agli impegni almeno per 3 mesi. Nel frattempo è slittata a lunedì la chiusura della procedura di cassa integrazione per i 17.500 dipendenti di Alitalia. I sindacati chiedono al governo garanzie per la 13ª e per gli 8 mesi di mancato preavviso. L'ottavo giorno. Giovedì. È la giornata mondiale dell'infanzia, che purtroppo cade in un momento in cui l'Italia, secondo i dati forniti da Telefono Azzurro, risulta essere quinta nel mondo per pedopornografia. Intanto la Camera dei Deputati ricorda questa giornata, questo importante appuntamento con la giornata mondiale dell'infanzia. Sentiamo da Roma il racconto di Chiara Di Michele. La nostra società ha il dovere di dare al fanciullo il meglio di se stessa. Con questa riflessione il presidente della Camera Gianfranco Fini avvia le celebrazioni della giornata dell'infanzia, una giornata dedicata all'accoglienza dei minori stranieri, a cui Fini rivolge un'attenzione particolare affinché non si sentano cittadini di serie B. I figli degli immigrati devono poter ricevere tutti gli strumenti necessari per preparare il loro futuro di italiani, per sentirsi in qualche modo gli italiani di domani, a prescindere dal colore della pelle, a prescindere dal luogo in cui sono nati i genitori, a prescindere dal credo religioso. La terza carica dello Stato invita il Parlamento a rivedere i meccanismi di acquisizione della cittadinanza, poi ricorda che una società che non tutela l'infanzia è senza avvenire. Sfruttamento, maltrattamento e violenza contro i minori sono pratiche ancora diffuse nel mondo e l'Italia purtroppo non fa eccezione. Oggi sono 150.000 i bambini costretti a lavorare. Proprio in occasione della giornata mondiale dell'infanzia, nel GR Extra Large di giovedì interviene Roberto Salvan, direttore generale dell'UNICEF.

per aiutare il cuore a pompare più sangue, non è un sistema che è utilizzato per sostituire il cuore. E quindi abbiamo usato in realtà due pompe ventricolari, una per sostituire il ventricolo destro e una per sostituire il ventricolo sinistro. Dopodiché la paziente è rimasta con praticamente un cuore artificiale per 118 giorni, quindi quasi 4 mesi. Fino a quando non avete potuto trovare? Fino a quando non abbiamo potuto trovare un altro cuore che abbiamo impiantato, e il giorno dopo il secondo cuore trapiantato l'abbiamo anche riportato in sala operatoria per fare un trapianto di rene, perché i reni avevano sofferto durante tutto il periodo di in cui era debilitata, e ieri, dopo 3 settimane dopo il secondo trapianto di cuore, è stata mandata a casa. Ah, già a casa? Sì, non le so dire con certezza se non ci sia mai stato un caso di cuore artificiale pediatrico in una paziente così giovane. Probabilmente questo è il caso più giovane, ma prima di così diciamo claim medical first, prima di essere sicuri che di questo è rivendicare un primato. Esattamente, non ne siamo sicuri, perché è sempre possibile che in un centro in qualche parte del mondo che non riporta i dati alla stampa o nella letteratura medica questo sia stato fatto e non ne siamo a corrente. Ma che difficoltà comporta intervenire in un paziente così giovane rispetto a un adulto? Ma in realtà dal punto di vista del body size, dal punto di vista della differenza in così dimensione corporea, una quattordicenne ha un corpo che è abbastanza simile a quello di un adulto. Il problema però in questo caso è stato il fatto che ci è voluto un certo numero di settimane perché la paziente potesse ricoverare dal stress di un trapianto di cuore che è andato male, poi l'inserzione delle pompe ventricolari. Davvero una bella storia d'applausi quella di Marco Ricci, e un'altra storia abbiamo ancora da raccontarvi prima di concludere. Infatti con l'ottava notizia torniamo negli Stati Uniti per ricordare il terremoto che si verifica ad inizio settimana dentro Yahoo. Il servizio di Maria Luisa Pezzali. 6 mesi fa il rifiuto della maxi offerta di Microsoft, ora le dimissioni. C'è una causa precisa per il terremoto al vertice di Yahoo, il più noto portale internet mondiale, che ha portato il cofondatore e amministratore delegato della società Jerry Yang a lasciare la sua poltrona. Yang, 40 anni, tornerà al suo vecchio ruolo di direttore della strategia e della tecnologia, resterà nel consiglio di amministrazione ma non sarà più il numero uno. La sua determinazione nel conservare una totale libertà di movimento, vincente per anni, è culminata nel rifiuto dell'offerta da 47 miliardi e mezzo di dollari del gigante del software, si è rivelata alla fine una scelta carica di insidie che ha minato la forza finanziaria di Yahoo. Dal picco massimo di $30, Microsoft ne aveva offerti 33, il valore delle azioni è rotolato fino ai 10 della chiusura di ieri. Con la partenza di Yang, gli analisti già scommettono su una grossa ristrutturazione dell'azienda che potrebbe alla fine culminare proprio nella vendita al colosso di Redmond. È tutto per l'ottavo giorno di questa settimana. Ricordo la mail ottavogiorno@radio24.it. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia. Da parte di Emiliano Enrico l'appuntamento è alla settimana prossima alla stessa ora, sempre su Radio 24.